Pregare è certamente un elevare l'animo a Dio, ma l'animo deve essere diretto, sostenuto, rischiarato dal pensiero. In casi particolari e per temperamenti determinati può essere possibile il preservare in un mero moto del cuore che sorge spontaneamente oppure scaturisce da un felice impulso, e il trarne così anche un reale vantaggio religioso. Una preghiera invece che si ripeta di frequente deve adattarsi ai più diversi stati d'animo, giacché ciascun giorno si eguaglia ai precedenti. Ora, se il contenuto di queste forme di preghiera è prevalentemente sentimentale, esso porterà in sé l'impronta ad una conformazione spirituale del tutto determinata, poiché tra tutti i processi psichici il sentimento è quello che più tende verso l'individuale. Così, tale preghiera riuscirà sempre inadatta quando la sua intonazione, almeno in parte, non si accordi con quella che domina nella persona che vuol pregare. Altrimenti essa riesce inutile oppure altera addirittura il sentimento. La stessa conclusione si raggiunge considerando che tale preghiera deve servire ai temperamenti più diversi. Se pertanto una preghiera comune deve effettivamente valere per il suo scopo, essa deve essere sostenuta e dominata da chiare e ricche idee dogmatiche. Solo allora le riesce possibile servire a una comunità che risulta di tipi diversi ed è agitata da sentimenti mutevoli. Solo il pensiero conserva sana anche la vita religiosa. Buona è solo quella preghiera che viene dalla verità, il che non significa soltanto che essa non può procedere dall'errore, ma anche che deve scaturire dalla piena verità. La verità rende potente la preghiera, comunicandole quel vigore aspro ma vivificante e preservatore, senza del quale essa riesce debole e sdolcinata. Se questo vale per la preghiera dei singoli, vale ancor di più per quella del popolo, che sotto certi aspetti inclina alla sentimentalità. Il pensiero dogmatico ci scioglie dalla schiavitù del sentimento, dalla sua vaporosità e inerzia, esso rende la preghiera chiara ed efficace sulla vita. Ma codesto pensiero dogmatico, se vuole effettivamente soddisfare al compito che gli spetta nei riguardi della comunità, deve introdurre nella preghiera la verità religiosa nella sua integrale pienezza. Le singole verità della rivelazione mostrano una certa affinità elettiva con determinati atteggiamenti spirituali e con determinate condizioni della vita interiore. È facile osservare come persone dotate di una certa natura e disposizione mostrino un'accentuata preferenza per determinate verità della fede. Ciò si manifesta ad esempio per il concetto dogmatico, da cui nelle conversioni le anime furono dapprima colpite e convinte, oppure per quello dal quale ricevettero la spinta definitiva. Ciò si palesa ancora per le verità che al sorgere del dubbio costituiscono il sostegno dell'intero edificio della fede. E parimenti si può osservare che anche il dubbio non sorge a caso, bensì per lo più investe le verità di fede che sono più estranee ai temperamenti in questione. Se pertanto una preghiera desse valore esclusivo o anche solo eccessivo a una qualunque verità di fede, a lungo durare potrebbe riuscire adeguata solo alle nature che vi inclinano, e anche in queste susciterebbe col tempo il bisogno della verità integrale. Se ad esempio una preghiera si volesse occupare solo della misericordia perdonante di Dio, essa finirebbe col non soddisfare neppure un'anima incline alla tenerezza. Questa verità della misericordia fa appello a quella che ne è il completamento, la maestà e la giustizia di Dio. Così dunque l'integrale pienezza delle verità della fede deve dipingersi in quelle forme di preghiera che debbono soddisfare a lungo andare una comunità. Anche qui la liturgia è maestra. Essa introduce l'intera ampiezza della verità nella preghiera, anzi, essa è null'altro che il dogma pregato, la verità rivissuta pregando. E invero sono le grandi verità fondamentali quelle che innanzitutto sostanziano la liturgia. Dio nella sua immensa realtà, pienezza e grandezza, l'uno e trino, la creazione, la provvidenza, la onnipresenza divina. Il peccato, la giustizia, l'anelito alla redenzione, la redenzione, il Redentore e il suo regno, i novissimi. Soltanto una verità così ricca non stancherà mai, Solo essa potrà essere realmente tutto a tutti e ogni giorno nuova. Una preghiera comune, pertanto, riuscirà feconda a lungo andare solo quando non si limiterà con esclusione e con preferenza a parti determinate della verità rivelata, bensì includerà nel limite del possibile l'intero contenuto dell'insegnamento divino. Questo ha particolare importanza nel popolo, che facilmente inclina a curare in modo unilaterale qualche verità preferita. D'altra parte, come invece talvolta avviene, la preghiera non deve essere sovraccarica e costretta così a esprimere tutti i concetti possibili. Senza ampio respiro, la vita religiosa intristisce, si fa gretta e meschina. La verità vi farà liberi, dalla servitù dell'errore non soltanto, ma anche atti a penetrare l'infinita ampiezza del regno di Dio. E se il pensiero ha da essere messo in rilievo, ciò non deve avvenire fino all'eccesso di un freddo cerebralismo. Le forme della pietà richiedono piuttosto d'essere avvivate da una calda corrente di fervore. La liturgia, anche a questo riguardo, ha parecchio da dire. Sono pensieri vivi quelli che la pervadono, vale a dire pensieri che sgorgono da un cuore commosso e che a loro volta devono commuovere un cuore ben disposto. Il culto della Chiesa sovrabbonda di profonda sensibilità, d'una vita del sentimento vigorosa, anzi talvolta addirittura appassionata. Quando di frequente e con che intensità, ad esempio, sono commossi i salmi? Con quale vigore si esprime la nostalgia del Salmo 41, la contrizione nel miserere, il giubilo nei salmi di ringraziamento, lo sdegno per la giustizia offesa nei salmi di maledizione? Quale straordinaria intensità di emozione si manifesta tra la tragedia del Venerdì Santo e l'esultanza del mattino di Pasqua? Ma questa emotività liturgica è straordinariamente istruttiva. Essa possiede certo momenti di altissima tonalità in cui tutti i vincoli vengono spezzati, come nella traboccante esaltazione gioiosa dell'Exultet nella veglia pasquale. Di regola, però, essa è attutita. Il cuore parla forte, però contemporaneamente s'afferma non meno vigoroso il pensiero. Formule di preghiere sono riccamente articolate, contessute accuratamente nel rapporto delle parti. Così, nonostante la profonda sensibilità dei salmi, si ha un'intonazione generale contenuta. La liturgia, come tale, non ama l'esuberanza del sentimento. Questo arde in essa, ma come in un vulcano, il cui vertice si leva limpido e chiaro nella fresca atmosfera. La liturgia è sentimento appieno dominato. E questo si percepisce particolarmente nella Santa Messa, sia nelle parti fisse che nelle preghiere proprie dei singoli giorni. Qui troviamo veri capolavori del più nobile atteggiamento spirituale. Questo riservo della preghiera liturgica è talvolta così rilevato che alla prima impressione sembra una fredda costruzione concettuale. Fino a che però non si sia vissuti più a lungo in tale mondo e non si abbia avuto modo di constatare quale intensità di vita ferva nelle forme ben dominate. E come è necessaria questa disciplina? In certi momenti, in determinate occasioni, il sentimento può effondersi più generoso. Però una preghiera che è destinata a ogni giorno e alla comunità deve rimanere misurata. Se invece si ammettono sentimenti assai tesi e non equilibrati, ci si espone a un doppio pericolo. O l'atteggiamento viene preso sul serio da chi prega, e allora può succedere che egli debba esercitare su di sé una coercizione interiore per provare sentimenti, e che non ha mai avuto o che almeno in codesto istante non ha, e questo potrebbe rendere il suo sentimento religioso innaturale, insincero. Oppure la natura si vendica, le frasi vengono accolte e ripetute freddamente con formule indifferenti e con ciò la parola viene depauperata del suo valore. La preghiera scritta deve certo anche educare, elevare dunque a una sensibilità religiosa più delicata. Ma la distanza dalla sensibilità della media dei fedeli non deve diventare troppo grande. Se una preghiera deve riuscire efficace e feconda durevolmente e per una collettività, deve essere dominata da una tonalità di sentimento vigorosa, sì, e profonda, ma insieme anche calma e misurata. Tornano a proposito qui i mirabili versi d'un inno quasi intraducibile nella loro trasparente chiarezza. Leti bibamus sobriam ebrietatem spiritus.